ad alta voce. Lucia Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Così passò l'inverno e la primavera, e già da qualche tempo il Tribunale della Sanità andava rappresentando a quello della provvisione il pericolo del contagio che sovrastava la città per tanta miseria ammontata in ogni parte di essa, e proponeva che gli accattoni venissero raccolti in diversi ospizi. Mentre si discute questa proposta, mentre si approva, mentre si pensa ai mezzi, ai modi e ai luoghi per mandarla ad effetto, i cadaveri crescono nelle strade ogni giorno di più. A proporzione di questo cresce tutto l'altro ammasso di miserie. Nel tribunale di provvisione viene proposto, come più facile e più speditivo, un altro ripiego: di radunar tutti gli accattoni sani e infermi in un sol luogo, nel lazzeretto, dove fossero mantenuti e curati a spese del pubblico. E così viene risoluto, contro il parere della sanità, la quale opponeva che in una così gran riunione sarebbe cresciuto il pericolo a cui si voleva mettere riparo. Il lazzeretto di Milano, se per caso questa storia capitasse nelle mani di qualcheduno che non lo conoscesse né di vista né per descrizione, è un recinto quadrilatero e quasi quadrato fuori della città, a sinistra della porta detta orientale, distante dalle mura lo spazio della fossa, d'una strada di circonvallazione e di una gora che gira il recinto medesimo. I due lati maggiori sono lunghi a un dipresso 500 passi, gli altri due forse 15 meno. Tutti, dalla parte esterna, sono divisi in piccole stanze d'un piano solo. Di dentro gira intorno a tre di essi un portico continuo a volta, sostenuto da piccole e magre colonne. Le stanzine erano 288 o giù di lì. A nostri giorni una grande apertura fatta nel mezzo e una piccola in un canto della facciata del lato che costeggia la strada maestra ne ha portate via non so quante. Al tempo della nostra storia non c'era anche due entrature, una nel mezzo del lato che guarda le mura della città, l'altra di rimpetto nell'opposto. Nel centro dello spazio interno c'era e c'è tuttora una piccola chiesa ottangolare. La prima destinazione di tutto l'edificio, cominciato nell'anno 1489 con danari d'un lascito privato, continuato poi con quelli del pubblico e da altri testatori e donatori, fu, come l'accenna il nome stesso, di ricoverarvi all'occorrenza gli ammalati di peste, la quale, già molto prima di quell'epoca, era solita, e lo fu per molto tempo dopo, a comparire quelle 2, 4, 6, 8 volte per secolo, ora in questo, ora in quel paese d'Europa, prendendone talvolta una gran parte o anche scorrendola tutta, per il lungo e per il largo. Nel momento di cui parliamo, il lazzeretto non serviva che per deposito delle mercanzie soggette a contumacia. Ora, per metterlo in libertà, non si stette al rigor delle leggi sanitarie e, fatte in fretta le purghe e gli esperimenti prescritti, si rilasciarono tutte le mercanzie a un tratto. Si fece stendere della paglia in tutte le stanze, si fecero provvisioni di viveri, della qualità e nella quantità che si poté, e si invitarono, con pubblico editto, tutti gli accattoni a ricoverarsi lì. Molti vi concorsero volontariamente. Tutti quelli che giacevano infermi per le strade e per le piazze ci vennero trasportati. In pochi giorni ce ne fu, tra gli uni e gli altri, più di 3.000. Ma molti più furono quelli che restarono fuori, o che ognuno di loro aspettasse di vedere gli altri andarsene e di rimanere in pochi a godere le elemosine della città, o fosse quella natural ripugnanza alla clausura, o quella diffidenza dei poveri per tutto ciò che viene loro proposto da chi possiede le ricchezze e il potere, diffidenza sempre proporzionata all'ignoranza comune di chi la sente e di chi l'ispira, al numero dei poveri e al poco giudizio delle leggi. O il saper di fatto quale fosse in realtà il beneficio offerto, o fosse tutto questo insieme, o che altro, il fatto sta che la più parte, non facendo conto dell'invito, continuavano a strascicarsi stentando per le strade. Visto ciò, si crede bene di passare dall'invito alla forza. Si mandarono in ronda birri che cacciassero gli accattoni al lazzeretto e vi menassero legati quelli che resistevano, per ognun dei quali fu assegnato a coloro il premio di 10 soldi. Ecco se anche nelle maggiori strettezze i denari del pubblico si trovano sempre per impiegarli a sproposito. E quantunque, come era stata congettura, anzi intento espresso della provisione, un certo numero d'accattoni sfrattasse dalla città per andare a vivere o a morire altrove, in libertà almeno, pure la caccia fu tale che in poco tempo il numero dei ricoverati tra ospiti e prigionieri s'accostò a 10.000. Le donne e i bambini si vuol supporre che saranno stati messi in quartieri separati, benché le memorie del tempo non ne dica nulla. Regole poi e provvedimenti per il buon ordine non ne saranno certamente mancati, ma si figuri ognuno qual ordine potesse essere stabilito e mantenuto, in quei tempi specialmente, in quelle circostanze, in una così vasta e varia riunione, dove coi volontari si trovavano i forzati, con quelli per cui l'accatto era una necessità, un dolore, una vergogna, coloro di cui era il mestiere, con molti cresciuti nell'onesta attività dei campi e delle officine, molti altri educati nelle piazze, nelle taverne, nei palazzi dei prepotenti, all'ozio, alla truffa, allo scherno, alla violenza. Come stessero poi tutti insieme d'alloggio e di vitto, si potrebbe tristamente congetturarlo, quando non avessimo notizie positive, ma le abbiamo. Dormivano ammontati a 20, a 30 per ognuna di quelle cellette, o accovacciati sotto i portici, su un po' di paglia putrida e fetente, o sulla nuda terra. Perché s'era bensì ordinato che la paglia fosse fresca e a sufficienza e cambiata spesso, ma in effetto era stata cattiva, scarsa, e non si cambiava. S'era ugualmente ordinato che il pane fosse di buona qualità, già che qua l'amministratore ha mai detto che si faccia e si dispensi roba cattiva, ma ciò che non si sarebbe ottenuto nelle circostanze solite anche per un più ristretto servizio, come ottenerlo in quel caso e per quella moltitudine. Si disse allora, come troviamo nelle memorie, che il pane del lazzeretto fosse alterato con sostanze pesanti e non nutrienti, ed è purtroppo credibile che non fosse uno di quella menti in aria. D'acqua perfino c'era scarsità, d'acqua voglio dire viva e salubre. Il pozzo comune doveva essere la gora che gira le mura del recinto, bassa, lenta, dove anche motosa, e divenuta poi quale poteva renderla l'uso e la vicinanza ad una tanta e tal moltitudine. A tutte queste cagioni di mortalità, tanto più attive che operavano sopra corpi ammalati o ammalazzati, s'aggiunga una gran perversità della stagione. Piogge ostinate, seguite da una siccità ancor più ostinata e con essa un caldo anticipato e violento. Ai mali s'aggiunga il sentimento dei mali, la noia e la smania della prigionia, la rimembranza delle antiche abitudini, il dolore di cari perduti, la memoria inquieta di cari assenti, il tormento, il ribrezzo vicendevole, tant'altre passioni d'abbattimento o di rabbia portate o nate là dentro. L'apprensione poi e lo spettacolo continuo della morte, resa frequente da tante cagioni, è divenuta essa medesima una nuova e potente cagione. E non farà stupore che la mortalità crescesse e regnasse in quel recinto a segno di prendere aspetto e presso molti nome di pestilenza. Sia che la riunione e l'aumento di tutte quelle cause non facesse che aumentare l'attività di un'influenza puramente epidemica, sia, come par che avvenga nelle carestie anche men gravi e men prolungate di quella, che vi avesse luogo un certo contagio, il quale nei corpi affetti e preparati dal disagio e dalla cattiva qualità degli alimenti, dall'intemperie, dal sudiciume, dal travaglio e d'avvilimento trovi la tempera, per dir così, e la stagione sua propria, le condizioni necessarie, insomma, per nascere, nutrirsi e moltiplicare, se a un ignorante è lecito buttar là queste parole dietro l'ipotesi proposta da alcuni fisici e riproposta da ultimo con molte ragioni e con molta riserva da uno diligente quanto ingegnoso, sia poi che il contagio scoppiasse da principio nel lazaretto medesimo come da un'oscura e inesatta relazione, par che pensassero i medici della sanità, sia che vivesse e andasse covando prima d'allora ciò che par forse più verisimile, chi pensi come il disagio era già antico e generale e la mortalità già frequente, e che portato in quella folla permanente vi si propagasse con nuova e terribile rapidità. Qualunque di queste congetture sia la vera, il numero giornaliero dei morti nel lazaretto oltrepassò in poco tempo il centinaio. Mentre in quel luogo tutto il resto era languore, angoscia, spavento, rammarichio, fremito, nella provvisione era vergogna, stordimento, incertezza. Si discusse, si sentì il parere della sanità. Non si trovò altro che di disfare ciò che s'era fatto con tanto apparato, con tanta spesa, con tante vessazioni. S'aprì il lazaretto, si licenziarono tutti i poveri, non ammalati, che ci rimanevano e che scapparono fuori con una gioia furibonda. La città tornò a risuonare dell'antico lamento, ma più debole e interrotto. Rivide quella turba più rada e più compassionevole, dice il Ripamonti, per il pensiero del come fosse di tanto scemata. Gli infermi furono trasportati a Santa Maria della Stella, al loro ospizio di poveri, dove la più parte perirono. Intanto però cominciavano quei benedetti campi a imbiondire. Gli accattoni venuti dal contado se ne andarono, ognuno dalla sua parte, a quella tanto sospirata segatura. Il buon Federigo li accomiatò con un ultimo sforzo e con un nuovo ritrovato di carità. A ogni contadino che si presentasse all'arcivescovado fece dare un giulio e una falce da mietere. Con la messe finalmente cessò la carestia. La mortalità epidemica o contagiosa, scemando di giorno in giorno, si prolungò però fin nell'autunno. Era sul finire quando ecco un nuovo flagello. Molte cose importanti, di quella cui più specialmente si dà titolo di storiche, erano accadute in questo frattempo. Il cardinal di Richelieu, presa, come si è detto, la roccella, abborracciata alla meglio una pace col re d'Inghilterra, aveva proposto e persuaso con la sua potente parola nel consiglio di quello di Francia che si soccorresse efficacemente Carlo Gonzaga e aveva insieme determinato il re medesimo a condurre in persona la spedizione. Mentre quell'esercito se ne andava dunque da una parte, quello di Ferdinando s'avvicinava dall'altra. Aveva invaso il paese dei Grigioni e la Valtellina. Si disponeva a calar nel Milanese. Oltre tutti i danni che si potevano temere da un tal passaggio, erano venuti espressi avvisi al Tribunale della Sanità che in quell'esercito covasse la peste, della quale allora nelle truppe alemanne c'era sempre qualche sprazzo, come dice il Varchi, parlando di quella che un secolo avanti avevano portata in Firenze. Alessandro Tadino, uno dei conservatori della sanità, erano sei, oltre il presidente, quattro magistrati e due medici, fu incaricato dal tribunale, come racconta lui stesso in quel suo ragguaglio già citato, di rappresentare al governatore lo spaventoso pericolo che sovrastava al paese se quella gente ci passava per andare all'assedio di Mantova, come s'era sparsa la voce. Da tutti i portamenti di Don Gonzalo pare che avesse una gran smania ad acquistarsi un posto nella storia, la quale infatti non poté non occuparsi di lui. Ma, come spesso le accade, non conobbe o non si curò di registrare l'atto di lui più degno di memoria, la risposta che diede Altadino in quella circostanza. Rispose che non sapeva cosa farci, che i motivi di interesse e di reputazione per i quali s'era mosso quell'esercito pesavano più che il pericolo rappresentato, che con tutto ciò si cercasse di riparare alla meglio e si sperasse nella provvidenza. Per riparar dunque alla meglio, i due medici della sanità, il Tadino suddetto e senatore Settala, figlio del celebre Lodovico, proposero in quel tribunale che si proibisse sotto severissime pene di comprar roba di nessuna sorte da soldati che eran per passare. Ma non fu possibile far intendere la necessità d'un tale ordine al presidente, uomo, dice il Tadino, di molta bontà, che non poteva credere dovesse succedere incontri di morte di tante migliaia di persone per il commercio di questa gente e loro robe. Citiamo questo tratto per uno dei singolari di quel tempo, che di certo, da che ci sono tribunali di sanità, non accade mai a un altro presidente d'un tal corpo di fare un ragionamento simile, se ragionamento si può chiamare. In quanto a Don Gonzalo, poco dopo quella risposta se ne andò da Milano e la partenza fu trista per lui, come lo era la cagione. Veniva rimosso per i cattivi successi della guerra, della quale era stato il promotore e il capitano, e il popolo lo incolpava della fame sofferta sotto il suo governo. Quello che aveva fatto per la peste o non si sapeva o certo nessuno se ne inquietava, come vedremo più avanti, fuorché il tribunale della sanità e i due medici specialmente. All'uscir dunque in carrozza da viaggio dal palazzo di corte, in mezzo a una guardia d'alabardieri con due trombetti a cavallo davanti e con altre carrozze di nobili che gli facevano seguito, fu accolto con gran fischiate da ragazzi che erano radunati sulla piazza del Duomo e che gli andarono dietro alla rinfusa. Entrata la comitiva nella strada che conduce a Porta Ticinese, di dove si doveva uscire, cominciò a trovarsi in mezzo a una folla di gente che parte era lì ad aspettare, parte accorreva, tanto più che i trombetti, uomini di formalità, non cessarono di suonare dal palazzo di corte fino alla porta. E nel processo che si fece poi su quel tumulto, uno di costoro, ripreso che con quel suo trombettare fosse stato cagione di farlo crescere, risponde: «Caro signore, questa è la nostra professione, e se Sua Eccellenza non avesse avuto a caro che noi avessimo suonato, doveva comandarne che tacessimo». Ma Don Gonzalo, o per ripugnanza a far cosa che mostrasse timore, o per timore di render con questo più ardita la moltitudine, o perché fosse in effetti un po' sbalordito, non dava nessun ordine. La moltitudine, che le guardie avevano tentato invano di respingere, precedeva, circondava, seguiva le carrozze gridando: «La va via la carestia! Va via il sangue dei poveri!» E peggio. Quando furono vicini alla porta, cominciarono anche a tirar sassi, mattoni, torsoli, bucce d'ogni sorte. La munizione solita, insomma, di quelle spedizioni. Una parte corse sulle mura e di là fecero un'ultima scarica sulle carrozze che uscivano. Subito dopo si sbandarono. In luogo di Don Gonzalo fu mandato il marchese Ambrogio Spinola, il cui nome aveva già acquistata nelle guerre di Fiandra quella celebrità militare che ancora gli rimane. Intanto l'esercito alemanno, sotto il comando supremo del conte Rambaldo di Collalto, altro condottiere italiano di minore ma non d'ultima fama, aveva ricevuto l'ordine definitivo di portarsi all'impresa di Mantova e nel mese di settembre entrò nel Ducato di Milano. La milizia a quei tempi era ancora composta in gran parte di soldati di Ventura, arruolati da condottieri di mestiere, per commissione di questo o di quel principe, qualche volta anche per loro proprio conto, e per vendersi poi insieme con essi. Più che dalle paghe, erano gli uomini attirati a quel mestiere dalle speranze del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza. Disciplina stabile e generale non ce n'era, né avrebbe potuto accordarsi così facilmente con l'autorità in parte indipendente dei vari condottieri. Questi poi in particolare né erano molto raffinatori in fatto di disciplina, né anche volendo si vede come avrebbero potuto riuscire a stabilirla e a mantenerla. Che i soldati di quella razza o si sarebbero rivoltati contro un condottiere novatore che si fosse messo in testa d'abolire il saccheggio, o perlomeno l'avrebbero lasciato solo a guardare le bandiere. Oltre di ciò, siccome i principi, nel prendere, per dir così, ad affitto quelle bande, guardavano più ad aver gente in quantità per assicurare le imprese che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare, per il solito molto scarsa, così le paghe venivano per lo più tarde, a conto, a spizzico. E le spoglie dei paesi a cui la toccava ne divenivano come un supplimento tacitamente convenuto. È celebre, poco meno del nome di Wallenstein, quella sua sentenza: esser più facile mantenere un esercito di 100.000 uomini che uno di 12.000. Erano 28.000 fanti e 7.000 cavalli. E scendendo dalla Valtellina per portarsi nel Mantovano, dovevano seguire tutto il corso che fa l'Adda per due rami di lago e poi di nuovo come fiume fino al suo sbocco in Po. E dopo avevano un buon tratto di questo da costeggiare, in tutto 8 giornate nel Ducato di Milano. Una gran parte degli abitanti si rifugiavano su per i monti, portandovi quel che avevano di meglio e cacciandosi innanzi le bestie. Altri rimanevano, o per non abbandonare qualche ammalato, o per preservare la casa dall'incendio, o per tener d'occhio cose preziose, nascoste, sotterrate. Altri perché non avevano nulla da perdere, o anche facevano conto da acquistare. Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata, si spandeva subito per quello e per i circonvicini e li metteva a sacco addirittura. Ciò che c'era da godere o da portar via spariva. Il rimanente lo distruggevano o lo rovinavano. I mobili diventavano legna, le case stalle. Senza parlare delle busse, delle ferite, degli stupri. Tutti ritrovati, tutte le astuzie per salvar la roba riuscivano per lo più inutili. Qualche volta portavano danni maggiori. I soldati, gente ben più pratica degli stratagemmi anche di questa guerra, frugavano per tutti i buchi delle case, smuravano, diroccavano. Conoscevano facilmente negli orti la terra smossa di fresco. Andarono fin su per i monti a rubare il bestiame. Andarono nelle grotte, guidate da qualche birbante del paese, in cerca di qualche ricco che vi si fosse rimpiattato. Lo strascinavano alla sua casa e con tortura di minacce e di percosse lo costringevano a indicare il tesoro nascosto. Finalmente se ne andavano, erano andati. Si sentiva da lontano morire il suono dei tamburi o delle trombe. Succedevano alcune ore d'una quiete spaventata. E poi un nuovo maledetto batter di cassa, un nuovo maledetto suon di trombe annunziava un'altra squadra. Questi, non trovando più da far preda, con tanto più furore facevano sperpero del resto. Bruciavano le botti votate da quelli, gli usci delle stanze dove non c'era più nulla, davano fuoco anche alle case e con tanta più rabbia, si intende, maltrattavano le persone. E così, di peggio in peggio, per 20 giorni, che in tante squadre era diviso l'esercito. Colico fu la prima terra del ducato che invasero quei demoni. si gettarono poi sopra Bellano. Di là entrarono e si sparsero nella Val Sassina, da dove sboccarono nel territorio di Lecco. Lucia Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.